Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questa nostra giornata di lunedì 10 febbraio. Parleremo di Irlanda, evidentemente, delle novità sul fronte del voto in Nord Europa. Parleremo purtroppo, ahimè, anche dell'Egitto, della sua detenzione e della tortura. Tutto di questo parleremo nei giornali, ma subito Radio Bullet, buon ascolto. Un buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati anche per oggi, lunedì 10 febbraio 2020, con il web notiziario di Radio Bullets, un podcast di notizie dal mondo, oggi dedicato alle questioni di genere. E noi cominciamo con la Turchia, dove c'è preoccupazione che il disegno di legge sull'amnistia possa rendere meno efficace la punizione per chi ha compiuto reati sessuali contro i minori. Il progetto di legge è ancora in discussione, non è stato precisato quali reati riguarderà, né quali misure alternative al carcere verranno presentate. Il governo, che probabilmente porterà in Parlamento questo mese il progetto, così ha detto all'inizio della settimana il ministro incaricato, ha detto anche che saranno esclusi condannati per crimini sessuali, così come per traffico di droga, criminalità organizzata, o chi è stato condannato in base alle contestate leggi antiterrorismo. Ma le attiviste per i diritti delle donne non si fidano delle promesse, visto che si parla di fare delle eccezioni per alcune tipologie di reati sessuali. Per esempio, se la differenza di età tra il responsabile e la vittima è inferiore a 15 anni, se non c'è stata denuncia penale, se vittima e colpevole sono sposati. Quest'ultima distinzione riguarda i matrimoni tra ragazzi minorenni e uomini adulti, che sono vietati ma vengono denunciati solo nel momento in cui la ragazza resta incinta e va a partorire in ospedale. Qui scatta la denuncia di ufficio e il carcere. L'amnistia riguarderebbe in questo caso non meno di 4.000 famiglie. Un gruppo di 197 organizzazioni per i diritti delle donne già a gennaio ha invitato il governo a cancellare la bozza. Selim Nagipoglu, femminista e avvocata, parla di una politica che sostiene il sistema del dominio maschile con le regole religiose e prende una posizione contro l'uguaglianza di genere. Spagna, Andalusia, manifestazione ieri a Siviglia di 10.000 donne contro la risoluzione dell'Istituto Andaluso del Mujeres, che ha escluso dal sostegno finanziario 241 progetti nel campo dell'uguaglianza di genere, dell'inclusione sociale e dello sradicamento della cultura sessista. Le organizzatrici della manifestazione hanno chiesto le dimissioni della ministra per l'uguaglianza, le politiche sociali e la conciliazione, Rocío Ruiz. La manifestazione di ieri era il punto di arrivo dell'iniziativa lanciata il 15 gennaio scorso e denominata Treno per la Dignità. Ma non è stata l'unica manifestazione. A Madrid 7.000 donne hanno dato vita a una cadena femminista, prima mobilitazione lungo la strada che porterà all'8 marzo. In questa cadena iniziamo il mese di lucha antes del 8 di marzo femminista, perché non è una lucha che si fa una vez al año, sino che si hace todo el año, pero estamos intentando visibilizarlo. Reivindicamos la emancipación de las mujeres en el mundo, no solo en Madrid, en el mundo entero, claro. Messico, proteste dopo la proposta di eliminare dal codice penale il delitto di femminicidio, che resterebbe solo un aggravante in caso di omicidio. A fare la proposta era stato pochi giorni fa il responsabile della Fiscalia Generale della Repubblica, Alejandro Gers Manero. Il reato era stato introdotto in Messico, dove nel 2019 sono state 1.006 le donne uccise per questioni di genere. Era stato introdotto, dicevamo, nel 2012 ed era specificato come il crimine di togliere la vita a una donna esclusivamente per ragioni di genere. E queste ragioni erano così elencate, sono così elencate nel codice: violenza sessuale prima dell'omicidio, lesioni fisiche prima dell'omicidio, precedenti di violenza domestica, relazione sentimentale con l'aggressore, minacce, privazione della comunicazione e esposizione pubblica del corpo della vittima. Canada, la legge sulla laicità del governo, finita in tribunale per discriminazione su base religiosa, ha ricevuto il sostegno di un gruppo di difesa dei diritti delle donne, il PDF Quebec, che rivendica come la laicità sia la base fondamentale per l'uguaglianza dei diritti. La questione che qui si ripropone è già stata dibattuta anche in Europa. La legge vieta l'ostentazione di simboli religiosi nello spazio lavorativo pubblico e tra questi simboli è considerato anche il velo. Nelle quattro cause in discussione in tribunali, PDF Quebec ha chiesto di essere considerata parte civile. Spiegheremo alla Corte, dicono, che il velo islamico è in ogni sua forma un simbolo sessista e contrario ai valori di uguaglianza tra i sessi. La Corte ha già accettato come parte civile in questi procedimenti il movimento laico québécois e Amnesty International. C'è un'altra questione che spesso emerge nel dibattito femminista ed è quella della prostituzione. Diritto da rivendicare come libertà o sottomissione al desiderio maschile? Negli Stati Uniti la discussione è tornata di attualità da qualche mese, precisamente da ottobre, in seguito alla spaccatura che si è avuta nella Now National Organization for Women al momento di prendere posizione sulla proposta di legge della città di Washington per depenalizzare la prostituzione. Mentre la sezione locale di Now decideva di appoggiare la proposta, la leader nazionale Toni Van Pelt, femminista storica e volto noto delle battaglie per l'emancipazione negli Stati Uniti, parlava nel Consiglio Comunale di Washington spiegando la sua contrarietà. Questa legge renderebbe la città la prima destinazione per il turismo sessuale e costituirebbe una seria minaccia per i diritti delle donne. Il lavoro sessuale, aggiungeva Van Pelt, è la versione più estrema dell'oppressione violenta delle donne. La posizione ufficiale dell'organizzazione però non è condivisa da tutti, meno che mai appunto dalla sezione locale di Now. Ora, in vista delle elezioni presidenziali, il tema è stato affrontato anche in campagna elettorale. Un sondaggio realizzato la settimana scorsa da Data Progress mostra come più del 50% dell'elettorato sia a favore di una depenalizzazione, percentuale che sale quasi al 70% nella fascia tra i 18 e i 44 anni. Sul nostro sito trovate i risultati di questa ricerca. Kurdistan, in occasione della giornata internazionale della tolleranza zero contro le mutilazioni genitali femminili, l'organizzazione UADI ha... terza vittoria consecutiva, seconda consecutiva in trasferta, settimo posto, che poteva essere sesto se il Verona non avesse fatto all-in con la Juventus, quindi ora manteniamo i nervi saldi. Sì, perché venivamo dalla settimana scorsa dove Moussa Barro per qualcuno aveva fatto una partita un po' sottotono, che costava troppo, non valeva tutti quei soldi. Dopo venerdì sera alle 11 tutti a incensarlo, a avere il terrore che l'infortunio per cui è uscito verso la fine della partita lo possa tenere fuori per un lungo periodo, e visto che nessuno dava vittorioso il Verona, tutti parlavano di Europa League perché Bologna sarebbe stato sesto e quindi pienamente all'interno del ranking per giocare la Coppa. Ok, fermiamo il treno in corsa, cerchiamo di avere dell'equilibrio. Sicuramente Bologna venerdì ha fatto una partita veramente importante con giocatori come Moussa Barro, come Schouten, che hanno dato l'impressione di avere in questo momento la fiducia sia dell'allenatore, ma proprio la fiducia nei propri mezzi, e di riuscire a imporre il gioco, e cosa che non è mai secondaria nello sport, anche di divertirsi parecchio. Bologna che fa praticamente tutto lui, va in vantaggio, si fa autogol e che dopo poi con la doppietta di Moussa Barro porta a casa una vittoria che nel finale, il gol del 3-2, mette un po' in ambasce i tifosi e l'allenatore Mihajlovic, che era in panchina perché in mattinata è stato dimesso dal Sant'Orsola con un bollettino medico, di tutto rispetto. Dicevamo, ora mani sul volante, non sognando più di tanto, cercando, come dicevamo anche nei periodi dove i risultati non arrivavano, di mantenere il gioco, perché come abbiamo sempre detto, alla lunga il gioco paga. Questo Bologna ultimamente ha ritrovato il proprio equilibrio, soprattutto nel gioco offensivo. La difesa ha ancora qualche amnesia, ma l'importante appunto è continuare questo trend. Sabato alle 18 arriva il Genoa, una gara sicuramente molto delicata perché i rossoblù liguri sono invischiati nella lotta per non retrocedere e sono avvezzi a rompere le uova nel paniere al Bologna. Ricordiamoci l'anno del centenario quando vennero vincere al Dall'Arno, una gara molto delicata. Vedremo poi in settimana chi ci sarà, chi verrà recuperato, chi no. Da segnalare un grandissimo entusiasmo, tanto che nel defaticante di sabato c'erano centinaia di persone all'allenamento. Situazione appunto da verificare per quanto riguarda le assenze sia per squalifica che per infortunio. Però l'impressione appunto che in questo momento l'equilibrio sia trovato e che chiunque va in campo riesce a dare il proprio contributo, perché ha ben chiaro che cosa deve fare all'interno della partita. Passiamo al basket. La Virtus perde la finale di Coppa Intercontinentale contro Tenerife, perde 80-72, una settimana, quella dei bianconeri, abbastanza travagliata, perché facendo un passo indietro, mercoledì sconfitta molto molto pesante per la compagine di Sale Giorgic, che perde 82-84 contro il Partizan, una partita praticamente condotta per 39 minuti e 40 secondi. Nel finale la Virtus si smarrisce, perde i palloni decisivi e il Partizan, accompagnato da quasi 400 tifosi, vince una partita che mette sicuramente in grande ambasce il passaggio del turno della Virtus in Coppa. Tutto si giocherà a questo punto a marzo nella gara di Istanbul contro il Borussia Fakar, una gara da dentro fuori, ma intanto si è poi volato a Tenerife, dove venerdì la Virtus ha battuto il San Lorenzo, una partita vinta con qualche ambascia nel finale del secondo quarto. Poi nei due quarti finale la differenza fra le due squadre è emersa. Sconfitta quella della finale, con una Virtus che, sia come è successo con il Partizan, anche con il Tenerife, subisse sotto le plance, perde la gara a rimbalzo, ma soprattutto ha in Schermadini il rebus difficile da risolvere. Alla fine farà 18 punti, e con un Huertas in serata di grazia, probabilmente sentiva il derby, lui ex fortitudino, che ne fa 23, in due fanno praticamente il fatturato, metà del fatturato della squadra padrone di casa. Una Virtus che alla fine ha 15 punti da Teodosic, 12 da Gamble da Ricci, 11 da Markovic e 10 da Marble. Come ha sottolineato nella conferenza dopo partita coach Georgievic, il problema è stato sicuramente l'inizio della gara, dove la Virtus è partita bene 7-0, poi dopo ha completamente perso il contatto con il canestro, neanche tiri facili e positivi non andavano mai dentro. Da lì non è riuscita a convogliare bene la gara, e gli spagnoli padroni di casa hanno recuperato e poi messo in sui propri binari la gara. E poi all'inizio del terzo quarto il massimo vantaggio 15 punti, con, diciamo, un Huertas sotto una stella importante, e da lì la Virtus ha cercato più che altro nel finale di tornare in partita, più di nervi che di grande lucidità. Nel finale, come con la gara con il Partizan, un gioco troppo prevedibile a favore di Teodosic, che non può sempre levare le castagne dal fuoco, e quindi con un'opzione A e mai un'opzione B per provare a liberare qualcun altro, visto che il fuoriclasse serbo aveva due se non tre giocatori, da lì tiri abbastanza forzati che non sono entrati. Vediamo questa Virtus, se ha un momento di difficoltà. Tre gare in cinque giorni sono sicuramente da gestire, ma non attendiamo appunto di vedere. La Fortitudo vince 95-92 contro Roma in casa, ritorna in feeling con il proprio pubblico e con la vittoria. Lo fa grazie ai 26 punti di Aradori, i 22 di Robertson, i 12 di Sims, gli 11 di Lulen, ma lo fa soprattutto con una grandissima prestazione dal tiro dall'arco, 14 su 29, una percentuale sicuramente importante. Una Roma che non riesce mai a capire qual è il bandolo della matassa per la difesa, la Fortitudo che nel finale prova un po' a complicarsi la vita, prende due punti a mio avviso molto importanti, perché c'era un po' di agitazione nell'ambiente, e questa vittoria mantiene in corsa per i playoff la squadra bianco-blu, che ha sicuramente bisogno in questo momento di trovare tranquillità. Per entrambe questa è la settimana della Final Eight di Coppa Italia. Inizia la Virtus giovedì sera contro Venezia, una Venezia dai risultati alterni, ma pur sempre la squadra campione d'Italia, e qui ci sarà da capire qual è il momento dei bianconeri di coach Sasa Georgievic, se sono un po' in un momento di calo, sarebbe un problema, perché questo è uno degli snodi della stagione molto molto importante. Dopodiché, qualora dovesse vincere contro Venezia, affronterebbe la vincente di Milano-Cremona, una gara sicuramente da attendere. Vediamo se ci saranno le percussioni per la sconfitta di Coppa. Qualche problemino aveva avuto Teodosic, che non aveva giocato la prima gara. Vediamo come ci arriverà la Virtus. Vediamo anche come ci arriverà la Fortitudo, che come underdog arriva alla Final Eight, giocherà venerdì contro Brescia, una Brescia che ha qualche problema fisico con Luca Vitali. Dicevamo una festa per i ragazzi di coach Martino, perché onestamente nessuno si aspettava, come neopromossa, di andare a Pesaro a fare le Final Eight, quindi una gara che si può affrontare anche con uno spirito sicuramente con meno pressione, e di provare a mettere in difficoltà una squadra come quella di Brescia, che probabilmente inizia a sentire un po' il peso del doppio impegno campionato e Coppa. Però stiamo a vedere, le Final Eight di Coppa Italia hanno da sempre portato grandi sorprese, sai mai che queste sorprese coinvolgono anche Bologna. Per questa settimana è tutto, buona giornata. Buongiorno da questa giornata di lunedì 10 febbraio. rientro di nascosto come un ladro nella casa del ladro. Mi guardo intorno e nella casa del ladro è tutto rubato. Pure l'aria che adesso respiro con il fiato corto è frutto d'un furto. Quando un ladro trova un ladro dentro casa non è mica contento, che difatti quel ladro mi vede e mi dice stai attento. Lui mi dice guardami bene, io non sono un ladro soltanto, io sono il padrone. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memore di quel che ha visto, che io mi muovo adesso prima che sia mattino, nessuno spia il mio passo sotto il cielo turchino. Ma io dico che a suonare un sonaglio davanti a un serpente, io dico che pure il serpente, pure quello si pente e capisce che sputare veleno per tutta una vita non gli è servito a niente. Ma il padrone è una cosa diversa, è uno strano serpente. Il padrone è una cosa diversa, è una bestia curiosa. Lui comincia succhiando il latte da quando è bambino, ma poi succhia ogni cosa. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memore di quel che ha visto, che io mi muovo adesso prima che sia mattino, nessuno spia il mio passo sotto il cielo turchino. Che difatti alla fine il padrone è una specie di ladro, solo che quando ruba il padrone non è mica reato, neanche quando che viene arrestato il suo alibi regge, perché lui è la legge. Così entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro, e quel ladro mi dice che lui non è un ladro soltanto, ma neanch'io sono un ladro, gli dico, e così mi avvicino, io sono un assassino. E così sotto il cielo turchino c'è un padrone di meno. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memore di quel che ha visto, e io mi muovo adesso prima che sia mattino, nessuno spia il mio passo sotto il cielo turchino. Ascanio Celestini, e qui andiamo con... Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. Sì, andiamo con la rassegna stampa per questo 10 febbraio, sono le 9:34 minuti e cominciamo dagli esteri evidentemente, per cui leggo dal giornale: i repubblicani aprono e ora Sinn Féin spera di entrare nel governo. Insomma, grosse novità arrivano dall'elezione dell'Irlanda del Nord, quello che il giornale con Davide Zamberlan chiama il grande pareggio di Dublino. Risultato storico dell'ex braccio politico dell'IRA, uno dei due partiti tradizionali è possibilista di un'alleanza appunto con la sinistra del Sinn Féin, che sappiamo propone un referendum per l'unificazione dell'isola irlandese, oggi tanto più cogente dopo dopo la Brexit di Boris Johnson. Ma vengo allora con Davide Zamberlan a Londra dal giornale. Il primo candidato eletto è Don Knec Online, sempre nomi difficilissimi celtici, poco prima delle ore 16.30 locali. Il primo di una nutrita pattuglia di esponenti dei Sinn Féin che siederanno nel prossimo Dáil, la Camera Bassa del Parlamento irlandese, quella in cui si concentra il potere legislativo. È questa la sorpresa delle elezioni irlandesi di sabato, il successo senza precedenti di quello che una volta era il braccio politico dell'IRA, l'esercito repubblicano nordirlandese. Al momento in cui questo giornale va in stampa sono stati segnati solo 29 seggi su 160 e a meno di ribaltoni improbabili, questa sarà ricordata come l'elezione in cui Sinn Féin si è seduta allo stesso tavolo degli altri due partiti storici, i repubblicani di Fianna Fáil e i popolari di Fine Gael, due coalizioni di centrodestra. Comunque, a questo punto è tempo di cambiare, è stato, dice più avanti l'articolo, lo slogan elettorale di Sinn Féin, una richiesta che McDonald ha ribadito ieri già pomeriggio in spoglio in corso, ma ha risultati ormai chiari. Stiamo già trattando con Verdi, socialisti, socialdemocratici, il popolo prima del profitto, ha dichiarato, una presa di posizione di facciata, la formazione di un governo che non può prescindere da un accordo con almeno tra Fianna Fáil e Fine Gael. Fino a sabato entrambi ribadivano il loro no a colloquio con Sinn Féin, un ostracismo storico che ha sempre escluso i nazionalisti dal governo. Ma con il voto di ieri gli equilibri cambiano. Mary Lou e Michelle, oltre l'IRA, avanzata in rosa dello Sinn Féin. Il movimento ha conquistato i giovani con i temi sociali piuttosto che rispolverando l'unificazione anti-britannica. Quindi Mary Lou McDonald e Michelle O'Neill hanno fatto incetta di voti a nord come a sud del confine irlandese. Le ragioni del loro successo starebbe nell'aver spostato la centralità dei temi del movimento. Non più e non solo in nome della riunificazione d'Irlanda in chiave anti-britannica, ma per il loro accentuato impegno su battaglie sociali di ispirazione socialista. E guarda caso, dice, ci racconta Repubblica che l'illuminazione politica è stata decisiva a diventare la vera sinistra in Irlanda, mentre il Labour era impantanato in ammucchiate di coalizione. Vi ricorda qualcosa questo questo quadro che ci viene presentato da Repubblica? Più welfare e sanità, guerra ai ricchi e alle multinazionali, tappo agli affitti e ai costi del mercato immobiliare cresciuti mostruosamente in Irlanda e a Dublino per una piaga di oltre 20.000 senza tetto, una retorica popolare e gestuale. Sembra il Jeremy Corbyn degli inizi, quando il leader Labour conquistava cuori e voti in Regno Unito. Poi certo, Mary Lou è anche controversa, per i suoi critici è il volto pulito di un partito sporco di sangue. Una volta a San Patrizio sfilò dietro lo striscione fuori gli inglesi dall'Irlanda, ha sostenuto il venezuelano Maduro. È stata tiepida con scagnozzi violenti dell'IRA. E poi l'UE, inizialmente euroscettica, ora è a favore perché il terremoto della Brexit potrebbe finalmente realizzare il sogno dello Sinn Féin, l'Irlanda unita. Sì, sarà anche sporco di sangue l'IRA e Sinn Féin, ma anche il Regno Unito, ricordiamo il Bloody Sunday, qualche goccia di sangue l'ha versata e come che l'ha versata. Il paradosso che abbiamo evidenziato con questo dossier riguarda... siamo sempre dentro la rassegna stampa, andiamo dunque ahimè in Egitto, leggendo questo articolo di Francesco Battistini del Corriere: Zaki, torture e cavi elettrici. Al Cairo interrogato, tra virgolette perché sono torture, per l'appunto per 7 ore. Al processo del giovane egiziano ammesso personale della nostra ambasciata. Il ricercatore che segue un master a Bologna è apparso in un'aula di giustizia con i segni delle botte. Questo è il processo democratico e regolare che si celebra in Egitto. Le accuse contro di lui? Avere criticato il presidente Al-Sisi. Non nominare il nome di Al-Sisi in vano, evidentemente. Il ministro Di Maio chiede, leggo dal giornale, Zaki libero, ma il Cairo lo zittisce, non è italiano. L'Italia chiama, ma il governo egiziano non risponde. Peggio, replica la sollecitazione della Farnesina con uno sconcertante. Zaki non è italiano, come dire, è un nostro connazionale, quindi non accettiamo interferenze, fatevi fatti vostri, noi facciamo le torture nostre, dico io. Un pessimo segnale per i sviluppi futuri di questa storia, questo non c'è dubbio. Mentre Bologna si mobilita, proprio perché il ragazzo fa un master a Bologna, liberate Patrick, dicono questo flash mob cappeggiato da Amnesty International ed altri militanti dei diritti in Piazza Maggiore. Leggo dal Carlino di Bologna: 200 in piazza per i ricercatori egiziani in carcere. Gli amici sono preoccupati, Patrick è un ragazzo buono, ma anche se non fosse buono non è un motivo per torturare la gente, evidentemente. Comunque, il guaio, il suo vero problema, e per cui è incarcerato e sotto torture in Egitto, che è sensibile ai temi dell'uguaglianza. Questa è la professoressa Monticelli, coordinatrice del Master Gemma. Patrick, racconta la professoressa Rita Monticelli, coordinatrice del Master Gemma, ha sempre partecipato attivamente alle lezioni cercando di capire e cogliere ogni punto di vista. È sensibile ai temi come uguaglianza, equità e rispetto, cose che sono chiaramente fuori legge in Egitto in questo momento. Centinaia in piazza per Zaki a Bologna, allora. Flash mob davanti a San Petronio. Non ti lasceremo solo. Il ministro dell'Università Manfredi al lavoro con i canali diplomatici. L'Italia in realtà chiede l'attivazione di questa convenzione internazionale che per i diritti umani, qui l'Egitto in teoria dovrebbe anche lui rispondere, ma in questo momento è assolutamente sordo. Sì, l'Università di Bologna ha costituito un gruppo di crisi per seguire da vicino l'evolversi della situazione. L'Ateneo di Bologna, ricordano dal rettorato, ha nei diritti umani un pilastro fondamentale, non ha intenzione di lasciare solo il suo studente. Patrick, racconta la professoressa Rita Monticelli, coordinatrice del Master Gemma, ha sempre partecipato attivamente alle lezioni, è sensibile a temi come uguaglianza, equità e rispetto. Mi ha sempre colpito per il suo grande rispetto nei confronti di chi lo circondava. Non lo lasceremo solo. La Farnesina è in pressing sull'Europa anche per liberare il giovane dell'Università di Bologna. Il Cairo dice era ricercato, non è italiano. Quel biglietto aereo del Marconi di Bologna al Cairo era un regalo di mamma e papà. Perché Patrick, racconta una delle sue migliori amiche, non poteva permetterselo. Ma dai genitori a Mansoura, città nella regione del Delta del Nilo, ricercatore attivista egiziano di 27 anni, iscritto dal 29 agosto all'Università di Bologna, non è mai arrivato. Arrestato non appena messo piede in patria e accusato dall'Egitto di istigazione alle proteste contro Al-Sisi e diffusione di notizie false. E attorno alla sua situazione, ora dopo ora, cresce la preoccupazione. Certo che era ricercato, ma evidentemente lui non lo sapeva, se no col cavolo che prendeva quel volo. Andiamo, questo era il resto del Carlino, ma andiamo alla stampa. La polizia di Al-Sisi interviene sul fermo dell'attivista, promuoveva l'omosessualità e allora al limite... che ne so, gli dai se è contro la legge, una condanna pecuniaria per offesa alla pubblica decenza, che ne so, una cosa del genere, lo torturi con i fili elettrici. E Patrick George Zaki si trova ancora nella stazione di polizia di Mansoura, sta bene, è contento della mobilitazione in suo favore, racconta l'avvocato che l'ha incontrato ieri per pochi minuti insieme ai genitori. L'attenzione sul caso dello studente dell'Università di Bologna bloccato al Cairo all'alba di venerdì non è passata inosservata agli attivisti egiziani, ma neppure alle autorità, tanto che ieri sulla pagina Facebook della polizia campeggiava una dichiarazione sibillina. Non c'è nessun arrestato italiano di nome Patrick, si chiama Patrick George Michel Zaki Salomone ed è egiziano. Nessuna spiegazione sui capi d'accusa, niente sull'attività di Zaki, che invece secondo l'emittente Ten TV era nel capoluogo emiliano per promuovere l'omosessualità. Sì, perché uno viene a Bologna per promuovere l'omosessualità, va bene. Un messaggio invece piuttosto, dobbiamo dirlo al Cassero, che insomma in questi anni non hanno fatto niente, doveva venire un egiziano a promuovere l'omosessualità a Bologna, va bene. Un messaggio invece piuttosto diretto per il nostro paese, al quale il braccio operativo del Ministero dell'Interno egiziano fa sapere di non gradire affatto l'intrusione. Chiudo con Repubblica. Patrick, picchiato e torturato per ore, ha bisogno dell'Italia per tornare libero. Sì, ha tanto bisogno dell'Italia, anche perché Regeni non ce l'ha fatta prima ancora di Patrick, quando era ancora sotto torture, malmenato, calpestato, eccetera eccetera. Ma Patrick è ancora vivo, e prima che diventi un Regeni con un nome appunto diverso, bisogna fare tutto il possibile per poterlo liberare, tirar fuori da questa situazione. Abbiamo un'intervista sulla Repubblica di Giuliano Foschini all'avvocato di Regeni, che dice: gli aguzzini di Zaki sono gli stessi di Giulio. Patrick, fermato per i suoi studi in Italia, viviamo in un paese che ci vuole dire che cosa dobbiamo fare. Dice: non so cosa abbiano in testa, parla ovviamente del regime. Sarà qualcuno delle loro solite paranoie che rendono il nostro paese non democratico, ma per loro è normale prendere un ragazzo, uno studente, sbatterlo in galera e torturarlo per giorni. A prendere Patrick è stata la sicurezza nazionale, il servizio segreto civile, lo stesso coinvolto nel sequestro, tortura e omicidio di Giulio, e che ha 5 ufficiali indagati per questo dalla procura di Roma. Lo hanno interrogato con metodi che purtroppo conosciamo bene, le torture, e gli chiedono il perché del suo viaggio in Italia, perché studiasse da voi e che cosa facesse nel vostro paese. Vengo a quello che è il piano di, tra virgolette, 18 virgolette, pace di Donald Trump per il Medio Oriente. Il dossier è oggi del Fatto Quotidiano, polveriera medio orientale. Cisgiordania, militari israeliani hanno fermato l'annessione. Lo stop a Netanyahu, secondo l'esercito e i servizi segreti di Tel Aviv, il piano di Trump avrebbe destabilizzato l'area, in particolare Giordania, Siria, Iran, c'era il rischio di un conflitto allargato, quindi c'è un nodo a ogni fronte. Secondo quest'articolo, l'Europa e i palestinesi hanno rigettato il progetto americano, mentre i coloni hanno già invaso la valle del Giordano con i trattori. Quindi davvero è benzina sul fuoco. E ricorda René Beckman, che dà questo articolo dal Fatto, quando Donald Trump il 28 di gennaio ha svelato il suo piano per risolvere il conflitto israelo-palestinese, i collaboratori di Benjamin Netanyahu avevano risposto che l'annessione della Valle di Giordano e della Cisgiordania, così come indicato nel piano del presidente americano, sarebbe stata analizzata dal Consiglio dei Ministri israeliano sin da domenica 2 febbraio. La notizia era stata accolta con entusiasmo dagli elettori del primo ministro e soprattutto dai coloni, ma poi, senza fornire spiegazioni, era stata annunciata alla stampa che la riunione in questione non avrebbe avuto luogo. Il voltafaccia del governo ha scatenato una manifestazione dei coloni che sono entrati con i loro trattori nella Valle del Giordano per chiederne l'adesione immediata. Come spiegare la retromarcia di Netanyahu? Si spiega perché i due autori del progetto di Trump, David Friedman, ambasciatore USA in Israele, e Jared Kushner, consigliere generale di Trump e principale artefice del progetto, non erano d'accordo sul punto delicato dell'annessione. Friedman, impegnato come Kushner nel finanziamento delle colonizzazioni e favorevole all'annessione rapida dei territori, difendeva l'intervento immediato del governo israeliano. Kushner invece riteneva che una decisione così importante, anche storica, non potesse essere presa da un governo provvisorio, e preferiva che i dirigenti di Israele aspettassero l'esito delle elezioni legislative del 2 di marzo. Insomma, c'è anche questo elemento, che questa operazione di guerra di Israele è combinata da un governo che è più che precario. Ma non è solo la svolta elettorale di Netanyahu ad aver partorito questo mostro del piano di pace di Trump, ma anche la corsa alla Casa Bianca dello stesso presidente attualmente in carica alla Casa Bianca. E allora andiamo nei guai dei democratici, perché Joe Biden attacca il nuovo Obama. L'ex vice, quindi sono un battibecco nella parte centrista dei democratici. L'ex vicepresidente contro Buttigieg, stella nascente delle primarie Dem. Non è Barack la replica, nemmeno lui. Mentre il presidente Obama coinvolgeva Joe Biden nella riforma sanitaria, il sindaco Buttigieg era impegnato a installare luci colorate sui tutti i ponti di South Bend. Questo è lo spot elettorale di Joe Biden, perché si voterà nello New Hampshire E allora la serie non è Obama, sarà Obama, sta di fatto che questo è Trump. Valerio Robecco dal giornale: guerra fredda USA-Russia, record americano di esercitazioni militari come 70 anni fa, quindi torniamo in guerra fredda. Da maggio-settembre 93 War Games in 29 paesi, Italia qui incluso, contro Mosca. Ma tu prima parlavi di Trump, c'è anche un'espansione di Trump verso le stelle. Sappiamo che ha dato l'ordine, diciamo, di creare l'esercito interstellare, non so come si chiama, spaziale. Ora dà il via libera al programma Artemis. Di che cosa si tratta? Il prossimo programma statunitense per l'esplorazione lunare prende appunto il nome di Artemide, sorella gemella di Apollo, ed è il programma NASA che portò l'uomo sulla Luna. A questo punto si ripiglia il programma Artemis per andare su Marte, perché ci si è resi conto che il viaggio è un po' troppo lungo e quindi bisogna fare scalo sulla Luna per poi approcciare al pianeta rosso. Quindi viene lanciata la missione NASA e vengono assegnati fondi illimitati. L'America sarà la prima nazione a piantare la sua bandiera su Marte. Di tutto il discorso dello Stato dell'Unione, sullo Stato dell'Unione pronunciato martedì scorso da Donald Trump, questo passaggio ha fatto sognare anche chi osteggia il presidente. Chiedo al Congresso, ha proseguito il presidente Trump, di finanziare tutto il programma Artemide per assicurare che il prossimo uomo e la prossima donna sulla Luna siano astronauti americani che la useranno come base per il lancio verso Marte. Un ritorno umano sulla Luna dopo l'ultima missione del 72, stavolta come base di lancio verso Marte. Poi dopo facciamo anche un bel alberghetto sulla Luna, così i viandanti si possono fermare a riposare prima di andare a Marte. Comunque, prima dell'alberghetto, una stazione militare, prima cosa da fare assolutamente. Ma veniamo al coronavirus. Naturalmente il coronavirus è una tragedia evidentemente sociale, sanitaria, economica in Cina, ed è un polpetone in Italia, non che non sia, come dire, non ci sia l'allerta sanitaria sacrosanta, ma qui ormai i giornali stanno facendo la cronaca delle non notizie, tutti quelli che non sono malati. Quindi potremmo anche noi fare uno scoop, prendere in quel telefono e dire tutti questi non sono malati, ma potrebbero anche ammalarsi. Comunque, allora, oggi è questo. Il dato arriva da Wuhan, quindi siamo dalla Cina, del Corriere della Sera: virus più vittime della SARS. Devo dire che, ma meno vittime del morbillo, per esempio, se vogliamo metterla in questi piani, perché ne fa strage il morbillo in Africa. Atterrati gli yacht italiani di Wuhan, vertice di governo sui danni all'economia. E questo è la grande preoccupazione di una pandemia che, se scappa di mano, come forse è già scappata in Cina, può avere effetti catastrofici sulla intera economia cinese, a questo punto anche mondiale, con dei riverberi ancora più ancora maggiori, paradossalmente, della stessa coronavirus. Partito il Falcon per riportare a casa anche il 17enne bloccato dalla febbre. Questo è mentre sono in isolamento gli 8 rimpatriati, pronto un jet militare per Nicolò. E poi c'è il viaggio verso l'Italia, il papà stringe il suo bebè: non ammalarti adesso, perché tra l'altro se uno si ammala tutti gli altri che erano in quarantena ricominciano in quarantena da capo, e quindi non si esce mai. Ma c'è questo tema che ha molto esaltato sulla stampa italiana: turisti di Taiwan rintracciato chi era sul treno con loro, la famiglia contagiata era in Italia dal 22 al 31 gennaio, altri 6 casi sulla nave in Giappone, e in Alta Savoia 11 contaminati da un amico nello chalet. Insomma, questo è e poi ci sono le pagine scientifiche o giù di lì, divulgative dei giornali. SARS, il nuovo virus, contagia e confronto, i morti hanno superato quelli del morbo di 7 anni fa, che però fu più letale, questo è più contagioso, quindi in termini assoluti i morti sono di più, in termini relativi sono di meno. L'origine è la stessa, cioè il commercio di animali, dice il Corriere della Sera. Sì, ovviamente si dicono tante stupidate, e tu dicevi un polpettone in Italia, la gestione non è delle migliori e fa anche arrabbiare la Cina, lo dicevamo già nei giorni scorsi, ma continua questa arrabbiatura della Cina per il blocco aereo voluto dal governo, l'unico in Europa. E poi, come dicevamo già lunedì scorso, se parti dalla Cina e fai qualsiasi tipo di scalo, nessuno ti guarda. E quindi alla fine, oltre che far arrabbiare la Cina, fai un'azione assolutamente inutile dal punto di vista della sicurezza. Ora i rapporti sono ai minimi termini, il Quirinale scende in campo per ricucire le relazioni diplomatiche. Tocca sempre al Quirinale ricucire. Il blocco dei voli tra i due paesi, deciso dal governo Conte per far fronte all'epidemia di coronavirus, è stato vissuto come un tradimento da Pechino. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in campo per aiutare il governo e ricucire lo strappo. Ecco perché, oltre per sopire comportamenti astrusi e stupidi della cittadinanza, che ha visto alcuni episodi di accanimento contro cinesi, adulti e bambini, il presidente ha lo scorso 2 febbraio ha inviato una lettera aperta al presidente cinese Xi Jinping per esprimergli la solidarietà del nostro paese e ribadirgli che la Cina può contare sulla Repubblica Italiana. Dopodiché, giovedì 6 febbraio, Mattarella si è presentato all'Istituto Manin, in uno dei quartieri più multietnici di Roma, cioè l'Esquilino, stringendo la mano ai tanti alunni stranieri, 100 dei quali sono di nazionalità cinese. Infine, il concerto di giovedì sera che si terrà al Quirinale nell'ambito dell'anno Italia-Cina, a cui parteciperà l'ambasciatore cinese a Roma. L'evento doveva tenersi nei prossimi mesi, ma è stato anticipato per ribadire l'amicizia tra i due paesi. È ovvio che adesso, spostandoci sul piano economico, sta soffrendo l'industria del turismo, perché chiudendo gli arrivi appunto del turismo cinese, che è molto molto impattante sul nostro territorio. Si parla di una contrazione del 40% a Milano, perché i cinesi portano 300 milioni ogni 30 giorni. Oggi il calo è del 40%, dice il sindaco Beppe Sala, e ci ricorda la Repubblica che gli arrivi sono 3,5 milioni gli arrivi totali in Italia del 2019, parliamo di turisti, quindi l'8% del totale, che non è poca cosa. Però appunto noi scegliamo la strada più semplice, chiudere la porta. D'altra parte, ragazzi, abbiamo Di Maio ministro degli esteri, non è che ti puoi aspettare grandi slanci da statista o altre cose. La Croce Rossa allerta l'OMS, l'epidemia può accelerare. È un nuovo studio che dimostra la capacità del virus di sopravvivere fino a 9 giorni sulle superfici. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è pronta a prendere misure più restrittive sui voli della Cina, quindi adesso vediamo anche gli altri paesi piano piano cosa faranno. Parla sulle pagine della Stampa il romanziere Qi Xiaolong, vive negli Stati Uniti e punta il dito contro Pechino. La gente è pure costretta a celebrare il partito. Sui social criticano il governo che ha coperto la verità e l'ondata di indignazione dei cinesi lascerà un segno. E dice: il problema non è soltanto Wuhan, ci sono tante altre città segregate senza trasporti e dove la gente è costretta a casa. Veniamo allora al governo, e lo facciamo col Sole 24 Ore, che oggi apre con De Lenda, reddito di cittadinanza. Perché apre? Reddito di cittadinanza, poco lavoro e 5 punti critici. Il reddito di cittadinanza non deve produrre lavoro. Era un sussidio per chi non ha detto. Ma ha detto questo: il primo anno i beneficiari sono 2 milioni e mezzo, di cui 791 mila occupabili, solo 28 mila hanno un impiego, lavori di pubblica utilità ancora senza piattaforma. I target sociali penalizzate le famiglie numerose, quelle con figli disabili, stranieri, nuclei disagiati, le persone senza fissa dimora. Quindi uno legge questo articolo, cosa pensa? Beh, 2 milioni e mezzo di persone che sono state salvaguardate non è male, però va assolutamente potenziato il reddito di cittadinanza per le famiglie numerose, quelle con figli disabili, stranieri, nuclei disagiati, persone senza fissa dimora. Invece lo spirito del servizio è allora si possa cancellare. Ma detto questo, il tema non è oggi sul reddito di cittadinanza, è sulla prescrizione, in questo braccio di ferro che a questo punto vede da una parte il PD, i 5 Stelle e l'EU, e dall'altra parte Italia Viva di Matteo Renzi. La sfida, lo che è Corral, sembra essersi spostato al Senato, dove appunto senza i voti di renziani non c'è più la maggioranza e quindi i renziani sono in un cul-de-sac, perché o si va alle elezioni e non ha molto reddito non di cittadinanza ma di elettorato in questo momento, oppure abbandonano questa trincea della sì alla prescrizione a prescindere. Il PD, leggo dal Corriere con Marco Galluzzo, prescrizione siamo a buon punto. Italia Viva, no interventi nel mille proroghe, nel Daidem deriva giustizialista, ma Zingaretti ottimista, ripartiamo uniti, quello che Luigi Ferrarella chiama la legge coelastico. La mediazione arriva da Leu ed è un altro Conte, Federico Conte, 47 anni, deputato Liberi Uguali, ed è che la prescrizione non ha più da essere quando c'è la seconda condanna in appello e quindi non si attende la Cassazione, che ha altri compiti nella legge italiana che è quello di verificare la legalità del processo, non nel merito delle questioni processuali. L'altro Conte, papà del Lodo, onorato di averli convinti, leggo dal Corriere della Sera. C'era un tavolo, è venuto fuori una mia proposta che è stata condivisa da quasi tutti, ma è comunque una decisione collegiale. Diciamo che c'è stata un'ulteriore mediazione che per me è un onore per aver contribuito e una soddisfazione di aver convinto per primo il PD e poi lo stesso ministro Bonafede. Mannucci, governo a rischio, si pensi al paese, dice Andrea Marcucci, capogruppo del PD al Senato. Restiamo al merito di una situazione, si trova chiunque punti ad altri fini inquina solo le acque. E allora ovviamente il centrodestra, che per due motivi sperava nella prescrizione: primo, perché tutti i guai dei vari boss imputati spuntano sulla prescrizione; il secondo è perché pensavano che Renzi faccia cadere il governo e si vada alle elezioni, dove loro sono chiaramente avvantaggiati nei sondaggi. Il Giornale infatti così apre: resa ai manettari, Renzi prescritto, dopo aver fatto la voce grossa l'ex premier cede ai 5 Stelle. E poi sugli immigrati, che più tardi vedremo, Di Maio si consegna a buonisti e ONG, che per il Giornale dire buonista e dire ONG è il massimo dell'insulto. Dire figlio di buona donna è molto più accettabile tra le due. Comunque, Renzi ingoia il compromesso mini rinvio per la prescrizione. Conte tiene bassi tiene bassi i toni, ma la coalizione resta fragile. Berlusconi e tutta la maggioranza sarà corresponsabile. Ma c'è anche un colmo per il povero Renzi. Avete notato come la sigla del suo partito di oggi sia identica a quella di Italia dei Valori, IV? Io certe volte quando vedo IV mi viene automaticamente in mente... Era IDV. Sì, però poi veniva abbreviato e quindi la D spariva. E quindi così è buffo questo paradosso di similitudine. Ma la guerriglia appunto di IV, scandalo, il lodo Conte nel mille proroghe. L'emendamento sarà presentato oggi, ma i renziani voteranno la fiducia in aula. E quindi a posto. Ma andiamo un attimo in casa Grillini, perché 5 Stelle, scusate, perché questi stati generali che si avvicinano assomigliano sempre di più a un congresso, come poi si era detto, però ovviamente ognuno è libero di chiamarlo come gli pare. Tanto è che c'è una mozione per chiedere di mettere Russo sotto il Movimento 5 Stelle. Perché viene contestato il sistema per essere eletti, la candidatura a punti. Pronto un documento anti-casaleggio. E quindi dice: l'ultima trovata di Davide Casaleggio, padrone oggi ancora assoluto dell'associazione Russo e dunque dei meccanismi procedurali di controllo del Movimento 5 Stelle, è in realtà un sistema pienamente funzionante da qualche mese, avviato dopo la sconfitta alle europee e finito tra le contestazioni che una fetta importante di parlamentari inserirà in un documento da presentare agli Stati Generali di aprile. Si tratta di un sistema a punteggi al quale è appeso il destino del singolo candidato e che dimostra ancora una volta di più quanto un partito politico, Movimento 5 Stelle, sia subordinato a un'organizzazione, Russo, che crea eventi ma che è legata alle logiche aziendali del figlio del fondatore di quel partito, Casaleggio. Loro li chiamano badge. Quanti più badge ottieni, tante più chance hai di scalare la lista delle selezioni interne. In gergo grillino, le parlamentarie, le regionarie, eccetera, eccetera. Il fatto però è che non acquisti punteggi con la normale attività politica del Movimento 5 Stelle. Dai banchetti sui territori, ai convegni o qualsiasi altra iniziativa che normalmente impegna un militante o un eletto. A premiare invece è la partecipazione alla piattaforma Rousseau, o direttamente online o agli eventi organizzati da Casaleggio in giro per l'Italia. C'è chi nella chat dei parlamentari parla del compimento del partito azienda, chi ironizza sui punti fedeltà dell'S lunga, chi cita la lettura distopica di The Circle di Deb Eggers, dove la carriera all'interno di una società digitale è strettamente collegata agli score di socializzazione raggiunti. E quindi c'è della mossa anche su questo fronte in casa 5 Stelle. Parlando del lavoro, vado alle letture un po' più in generale che ci dà il Fatto Quotidiano con Mirko Canevaro. Lavoratori come gli schiavi, questa non è democrazia. Futuro nero, leggo l'esempio di Atene. Oggi la precarizzazione sistematica non ha portato al maggiore controllo dei cittadini sulla propria occupazione e sulla propria vita. Beh, sarebbe strano il contrario, dico io comunque. Mentre i redditi, anche dei dipendenti, subiscono una crescente erosione. Oggi c'è una verticalità ancora più estrema della fabbrica fordista, il dominio assoluto del padrone. Questo è quanto. E sul lavoro, naturalmente, sull'economia, pesa moltissimo l'aspetto dell'edilizia, delle costruzioni. E allora il Sole 24 Ore ci parla bonus facciate senza istruzione. Cantieri e condomini bloccati. È una delle novità più significative della legge di bilancio, pensate per dare una forte spinta al rinnovamento del look delle città e dall'attività edilizia in generale. Il bonus facciata del 90% è in vigore dallo scorso 1 gennaio. Lo sconto fiscale quindi c'è, il problema però è che mancano le istruzioni. Il ritardo del fisco nel fornire le indicazioni applicative, unito ad un testo di legge poco comprensibile, era di conseguenza sta bloccando molti cantieri. E sul concetto di costruire, che c'è questa follia del costruire sempre di più, sentiamo allora un parere che va in controtendenza, perché nel nostro paese sono circa 7 milioni le case vuote, abbandonate, ma appunto si continua a costruire senza sviluppare seri e concreti piani di ristrutturazione e recupero di questo patrimonio immobiliare esistente. Emerge da un censimento Istat questo elemento. La rivista Valori poi propone un dossier sul consumo di suolo e sulla possibilità di rigenerazione urbana sostenibile, che ci presenta la giornalista d'inchiesta Rosy Battaglia. Il paradosso che abbiamo evidenziato con questo dossier riguarda proprio, tutte quelle che sono le irregolarità del sistema casa in Italia. Io sono appunto partita da questi dati Istat che fanno davvero molto riflettere e associati poi ai dati dell'ultimo rapporto di ISPRA, dell'Istituto Superiore per l'Ambiente, pubblicato nei mesi scorsi, in cui si denunciava l'eccessivo consumo di suolo, 2 metri quadrati al secondo, ricordiamo, e soprattutto in aree già molto compromesse, come sappiamo bene Milano, Roma soprattutto, ma in genere molte delle città italiane. Tutto questo dall'altra parte si scontra con quello che io ho definito il problema dell'abitare, perché abbiamo milioni di case vuote o abbandonate, almeno 2 milioni di queste si trovano nelle aree interne o nei piccoli borghi, nei piccoli comuni, come ci ha denunciato ANCI, e di fatto una bolla immobiliare che nelle grandi città ci porta ad avere affitti e prezzi di vendita al libero mercato altissimi, e quindi con tutte le speculazioni del caso. Nelle altre situazioni comporta invece un disagio, perché appunto anche la stessa ANCI ci ha fatto comprendere come ad esempio solo il problema dello spopolamento potrebbe essere recuperato attraverso 300.000 immobili rispetto a quei 2 milioni che dicevo che giacciono in questo momento abbandonati. Porto i dati che riportiamo nell'articolo e che sono anche alla base delle due leggi, dei diversi disegni di legge che giacciono in questo momento nelle varie commissioni al Senato, riguardano appunto contro il consumo di suolo, in cui appunto si riporta invece come la stessa economia italiana rispetto proprio all'abitare potrebbe essere rilanciata attraverso il riuso, il recupero. Molte di queste case, abitazioni, capannoni, ci sono diversi articoli all'interno del dossier, uno molto interessante anche del collega Nicola Borzi rispetto appunto all'Italia dei capannoni, abbandonati, che magari adesso vengono recuperati dalla logistica, che appunto possono essere invece recuperati, riutilizzati. Quindi questo vuol dire non consumare più suolo, ma nello stesso tempo mantenere anche quella che è l'economia del lavoro. E questo dunque era il discorso delle case, ma sempre sulla ricchezza, il Corriere ci parla con la voce di Landini. Detrazioni sull'idraulico, così si combatte l'evasione. Come tagliare le tasse con i 35 miliardi di IVA non versata? E allora c'è chi non versa, sì, invece chi versa. Ce lo dice Sole 24 Ore. Stranieri, in gioco 1,2 miliardi di gettito. Un'ipotesi che porterebbe alla sanatoria. Dall'emersione di 300.000 immigrati, 405 milioni di IRPEF e 804 i contributi. Leggo dall'articolo che arriva da Melis Nocis, proprio dal Sole 24 Ore. Solo nel lavoro domestico i cittadini non comunitari senza permesso di soggiorno sono stimati in circa 200.000. Se poi si aggiungiamo che la Fondazione ISMU ha quantificato in 563.000 gli stranieri presenti nel nostro paese senza averne formalmente diritto e consideriamo l'ulteriore crescita del fenomeno attesa per il 2020-2021, arriviamo alla stima di 600.000 irregolari elaborata dalla Fondazione Leone Moressa, che, partendo da questi numeri, ipotizza l'eventuale impatto economico di una nuova sanatoria sulla falsariga di quella arrivata nel 2012, e in gioco ci sarebbero 1,2 miliardi di euro. Ipotizzando poi l'emersione di 300.000 irregolari, lo Stato potrebbe incassare 405 milioni di IRPEF attualmente non versate, 804 milioni di contributi previdenziali e assistenziali. Questo è la regolazione della forza lavoro, ma evidentemente tutto il mondo proibizionista preferisce tenere tutto questo sotto traccia, sotto il mare, perché parliamo del canale di Sicilia, perché ci si lucra sopra. E allora arriviamo a questo sconcio che leggo da Fiorenza Sarzanini del Corriere. Migranti, l'Italia chiede tutele ma invia navi e jeep alla Libia. Insomma, l'Italia chiede più tutele per i migranti detenuti in Libia. Così, nella convinzione, più che fanciullesca ma molto ipocrita per l'appunto, che la Libia, impianata in una guerra, tutti si stia a riguardare i diritti dei migranti nei lager. Dunque, l'Italia propone alla Libia di modificare il memorando d'intesa chiedendo maggiori tutele per i migranti richiedenti asilo e per le persone vulnerabili, ma in cambio si impegna a consegnare al più presto motovedette, mezzi terrestri e apparecchiature che già nel 2017 avevano promesso di donare al governo di Tripoli. Insomma, gli danno delle armi, vendono delle armi, questo è quanto, e i migranti possono aspettarne i diritti. E tanto basta per scatenare nuove polemiche, visto che a fronte di una spesa di meno 800 milioni non c'è alcuna garanzia che l'accordo possa essere rispettato. Sì, decreti sicurezza, permessi umanitari e molte più basse, e la ministra Lamorgese che annuncia le modifiche, però manca ancora il via libera della maggioranza, quindi attendiamo che ci sia anche un via libera e un voto perché poi diventino definitivo. Certo è che, dice la Lamorgese, oggi appena abbiamo notizie di una nave avviamo la redistribuzione in modo che quando poi attracca non ci sono cori di dove li mettiamo, dove non li mettiamo, le invasioni e questo e quell'altro. E a proposito di questa vociotta, così, avete notato che quanto è abbastanza silente rispetto ai suoi canoni precedenti il buon Matteo Salvini? Era impegnato a mettersi d'accordo con la sua avvocata, che tra l'altro è un'ottima avvocata, perché stiamo parlando della senatrice Buongiorno, che convince l'ex ministro. Mercoledì i leghisti usciranno dall'aula. Sì, perché Salvini, dopo la mossa falsa di far votare i leghisti per l'avvio della procedura nei suoi confronti, certo che avrebbe vinto in Emilia Romagna e quindi avrebbe potuto usare questa cosa come suo solito per fare la vittima sacrificale di colui che ha pensato al bene degli italiani e dell'Italia, che era punito per questo. Non gli è riuscita questa cosa, e già all'epoca Giulia Buongiorno gli aveva sconsigliato vivamente di farlo. questa volta si impunta perché c'è proprio un problema poi di linea di difesa. Se dice Giulia Buongiorno che se la Lega vota a favore è come se ammettesse che in effetti il reato c'è stato e quindi gli crolla tutto l'impianto difensivo, e allora sarà anche una delle migliori avvocate italiane, però insomma oltre la logica non ci può andare nemmeno lei. E quindi la spuntata questo giro è riuscita quantomeno a far ragionare Matteo Salvini, raccontano dalla Lega, convincendolo a non fare altri colpi di testa sul caso Gregoretti dopo quello appunto che citavamo. L'avvocato e senatrice che allora aveva perso le staffe per le bizze del capo sembra sia riuscita a far capire nelle ultime ore che un voto favorevole dei leghisti anche in aula per il processo di sequestro di persona chiesto dal tribunale del ministro di Catania equivarrebbe a un'ammissione di responsabilità o quasi. E così il segretario ha comunicato il dietro fronte al capogruppo Massimiliano Romeo. I loro 60 parlamentari lasceranno l'emiciclo. Non usciranno subito, tuttavia. Ad apertura dei lavori alle 9.30 spetterà Erika Stefani il compito di riferire all'Aula sull'esito del voto in giunta del 20 gennaio. Cosa succede? Che il voto favorevole anche della Lega, in aggiunta a quello già decisivo e sufficiente della maggioranza, finirebbe col vanificare o quasi l'intera strategia difensiva. Insomma, l'impuntatura potrebbe costare caro quando dinanzi al Tribunale dei Ministri si aprirà un processo dall'esito già imprevedibile. Il primo di una serie, peraltro, stando alla sequenza di richieste che stanno piovendo dalle procure. Nella discussione che mercoledì si aprirà subito dopo la relazione in aula, Matteo Salvini quasi certamente prenderà la parola, come ha fatto il 20 marzo dell'anno scorso in occasione del voto sul caso di Ciotti. Allora la richiesta di processo era stata respinta grazie ai senatori del Movimento 5 Stelle e questa volta si ritroverà da solo, si difenderà cercando di dimostrare, mail e messaggi alla mano, il coinvolgimento del governo e del premier nella decisione di tenere per 4 giorni al largo di Augusta i 131 migranti a bordo della nave Gregoretti della Guardia Costiera nel luglio scorso. Gli alleati di Forza Italia e Fratelli d'Italia stanno preparando un ordine del giorno con cui si oppongono alla richiesta di processo al fine di consentire un voto, non i leghisti, perché usciranno dall'aula appunto. Diversamente, se non ci fosse alcuna proposta, non si voterebbe nemmeno, si darebbe per acquisito il pronunciamento della giunta per le autorizzazioni, quindi il via libera a procedere. Quando noi ci siamo recati come volontari di No Name Kitchen sul posto, che è una fabbrica abbandonata dove non dormono più migranti dal 22 novembre 2019, quando c'è stato un grande sgombero, un'operazione mediatico-politica proprio di grosse proporzioni, ci dormivano 150-200 ragazzi, poi sono stati portati tutti nei campi e quindi non ci dormono più, però è rimasto un punto di ritrovo perché questi ragazzi adesso piantano le tende quando ce l'hanno, quando riusciamo a fornirgliele, nella boscaglia, in mezzo ai fossi, in una radura, in qualsiasi posto dove possano non essere visti. Quando siamo arrivati lì abbiamo trovato questi operai che sulle loro macchine avevano questa bandiera di questo gruppo ultranazionalista, i Cetnik, che oltre a fare pulizia, per cui si dice fossero stati chiamati, avevano anche acceso una pira, insomma un fuoco, dove buttavano tutte le coperte, i vestiti, gli effetti personali che evidentemente avevano ritrovato andando a scandagliare tutte le bici. Quando i nostri volontari si sono avvicinati per cercare di salvare il salvabile, quello che ancora non era all'interno del fuoco, sono state respinte e colpite perché se ne andassero, perché lasciassero subito il luogo. Hanno issato la bandiera serba e quella Cetnik sullo squat, sul tetto di questa fabbrica abbandonata, e poi si sono andate alcuni a lavorare appunto effettivamente, a pulire le sterpaglie e quello che dovrebbe essere il loro lavoro. Altri invece appunto a cercare tende e migranti. Ce n'era una, noi abbiamo visto che stavano andando in quella direzione, ci siamo mossi anche noi, siamo intervenuti, ci sono stati dati 5 minuti con loro comunque alle spalle che pressavano e spingevano, abbiamo svegliato i ragazzi, sono riusciti a uscire dalla tenda e ad allontanarsi, però quando stavamo cercando di raggruppare la tenda, insomma di prendere fuori quello che c'era dentro, che non era poi niente più di coperte, un sacco a pelo, appena Io personalmente ho tirato giù un telone che era sopra la tenda per proteggere dalla pioggia. Queste persone hanno iniziato a buttarci su della benzina e gli hanno dato fuoco. Hanno buttato la benzina anche sulla tenda, dove c'era ancora la mia amica a raggruppare le cose. E per una fortuna, diciamo, non è successo niente di peggio. Abbiamo comunque preso tutto, ci stavamo già allontanando dalla fabbrica. Quando stavamo uscendo è stato buttato un petardo sulla schiena di una mia amica. Ci è stato intimato di uscire anche dal parcheggio che stava di fronte la fabbrica, quindi già fuori dal capo di questi lavoratori, se vogliamo. Quando ci ha intimato, ci ha spinto via con il manganello, ha spaccato il cellulare di una di queste due mie colleghe. Quando io ho cercato di mettermi in mezzo, sono stato spintonato via anch'io. Siamo usciti, è arrivato anche il vice sindaco, che insieme a loro ha detto che non potevamo stare neanche nel parcheggio, che dovevamo andare sulla strada. Quando però la polizia è arrivata, ha chiamato da noi, si è messo a parlare con il vice sindaco e con questo gruppo, e ha chiamato noi però, e dopo avergli dato i documenti, appunto, siamo stati messi noi dentro il furgone della polizia. E questo è il racconto di Adalberto Parenti, bolognese attivista vittima di questa aggressione, in quanto aggredito da nazionalisti serbi perché aiutavano i migranti, processati senza avvocato, condannati e fatti oggetto di un provvedimento di espulsione. Questo è successo ad un gruppo di attivisti dell'ONG No Name Kitchen in un paesino al confine tra Serbia e Croazia, nella caccia del migrante che c'è tra Italia, Libra, Francia e quant'altro. Direi che la caccia è un'attività venatoria alle persone, che è internazionale. Altre notizie di cronache. Andiamo all'inchiesta sul Frecciarossa deragliato. I giornali subito hanno dichiarato che la colpa era colpa degli operai, perché è la cosa più semplice. Questi invece dicono che non è vero. Si aspetta allora le stime, le indagini sui pezzi, perché Frecciarossa e gli indagati, il ricambio era difettoso, quindi non è loro che l'hanno fatto, l'hanno posto male, è il ricambio che non funzionava. Questa è la versione che, appunto, di questi imputati. Due operai hanno lavorato sullo scambio, il PM sentirà chi era il controllo remoto della linea. Vado invece al tema ambientale. Gli alieni sono in città, farfalle dall'estremo oriente volano in Lombardia, pappagalli africani a Roma, allarme specie invasiva. Quindi queste sono molto nocive per l'agricoltura, come le famose cimici asiatiche. Si parla di globalizzazione, si stima che siano 3.000 le specie strane presenti nei nostri territori, un po' il cambiamento climatico, ma anche, racconta l'articolo del Corriere a firma di Riccardo Bruno, ma anche le merci, la globalizzazione, come porti, aeroporti, attività economiche come negozi animali di affezione, vivai, impianti di stoccaggio, derrate varie, che determinano il più alto rischio di introduzione di specie non autoctone nel nostro territorio. Questo è quello che arriva dal Corriere della Sera. Sempre sull'ambiente, invece, mi sposto sulla laguna veneziana. Marta, guardiana della laguna, via le grandi navi da Venezia. È il Fatto Quotidiano con Maria Cristina Freddosio. Dunque, c'è bisogno di costruire infrastrutture utili al fronteggiare l'innalzamento del livello del mare, dobbiamo allargare le zone cuscinetto, dice questa Resistenza Rosa, cioè donne in prima fila contro queste grandi navi. Questa solita fotografia che fa impallidire il campanile di San Marco, perché è più alto, questa è una grande nave di 6.000 persone dentro. Cresciute tra i canali, questa signora nel 2012 aderisce al comitato contro i giganti del mare. L'impegno civile le è costato 3 processi per navigazione pericolosa e interruzione. Cioè, perché se uno naviga con una barchetta nel canale Sicilia prende il processo, se invece si va con una grande nave enorme, no. Questa è poi la famosa piramide rovesciata della legge. Comunque alla fine è sempre assolta. E parlavi di clima, no? Ghiaccio bollente è il titolo di un articolo tutta pagina di Elena D'Ursi sulle pagine di Repubblica. Cos'è successo? Che in Antartide si è registrato alle 12 del 6 febbraio la temperatura record di 18 gradi ed era più 6 gradi rispetto alla città di Roma, così, tanto per fare un parallelo. Si parla di venti tiepidi e pioggia in questo periodo a base Speranza, infatti c'è una base di ricerca, la stazione scientifica in Antartide, e di solito invece, raccontano gli altri anni, insomma, nevicava in questo periodo. Via i giacconi, ricercatori in maglietta, mentre i pinguini si crogiolano al sole, l'acqua scroscia da un paio di cascatelle e il ghiaccio ormai non è più bruno, cioè non è più bianco ma è bruno, e sta fondendo alle spalle della base Speranza. Qui sulla punta nord della penisola antartica il 6 febbraio il termometro ha segnato 18,3 gradi e è il record del polo sud registrato dal servizio meteo argentino, e anche la risposta australe alla provocazione dell'Artico, che lo scorso luglio misurò 21 gradi sull'isola di Ellesmere, 80 gradi nord in territorio canadese. Un altro record battuto di fresco, almeno lui, dopo quelli del mese scorso, gennaio più caldo di sempre, dell'anno scorso, il più torrido in Europa, e del decennio scorso, anche per lui, temperature più alte nel mondo. Record sfiorato a dicembre in Italia, con 1,9 gradi in più, siamo al secondo posto dal 1800. E i 27 gradi di massima la settimana scorsa in alcune città della penisola indicano che siamo vicini al primato dell'inverno senza inverno. Direi che siamo verso il finale, ma non possiamo tralasciare questo articolo importantissimo del giornale. Voi conoscevate il pericolo ayahuasca? Allora ve lo dico io cos'è, e ce lo racconta Paolo Manto del giornale. Allarme ayahuasca, la droga letale indigena sbarca in Italia. Durante un controllo antidroghe, i carabinieri hanno infatti sequestrato venerdì scorso in un appartamento di Fiuggi capsule contenenti all'interno polvere della sostanza allucinogena usata dagli sciamani dell'Amazzonia, ma oggi ingurgitata soprattutto in Occidente, molti dei quali sono italiani, ma anche da studenti emergenti per vincere lo stress e aprire la mente. Quindi la droga degli sciamani ora invade la città. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, e devo dire che è terminato il Festival di Sanremo. Ovviamente non voglio parlare qui del Festival di Sanremo. Ieri pomeriggio a Radio 2 c'era un pezzo della nostra radio in onda, perché c'era lo Stato Sociale che intervistava Eddie Anselmi. Beh, io vi voglio lanciare un appuntamento. Domani sera Eddie Anselmi sarà a fare quattro chiacchiere insieme alla sottoscritta alla libreria Biblion di Granarolo a partire dalle 21, quindi vi diamo appuntamento con Eddie e partecipate numerosi, anche bolognesi, insomma Granarolo è a due passi, quindi vi aspettiamo. E quindi con questo appuntamento serale è tutto, noi ci congediamo con la rassegna stampa di questo lunedì, se poi si passerà martedì, stesso orario, stessi giornali e stessa frequenza. Ciao a tutti.